Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Per tutto il cammino non pensai una sola volta alla parete, tanto ero occupata con la mia trovatella. Ogni tanto la mucca si arrestava all'improvviso per brucare e allora l'ince si accucciava lì vicino senza perderla d'occhio. Quando ne aveva abbastanza le dava una delicata spinta e lei, obbediente, si rimetteva in moto. Non so se fosse vero, ma nel periodo successivo ebbi spesso l'impressione che l'ince avesse molta dimestichezza coi bovini. Credo che il guardacaccia, quando in autunno spingeva le sue mucche al pascolo, lo avesse talvolta usato come cane da guardia. La mucca aveva l'aria tranquilla e soddisfatta. Dopo due giorni terribili aveva trovato un essere umano. Era stata sollevata dal peso opprimente del latte e non pensava affatto a scappare. Da qualche parte doveva esserci una stalla dove questo nuovo padrone l'avrebbe condotta. Trotterellava al mio fianco sbuffando piena di speranza. Attraversato il ruscello con qualche fatica, accelerò perfino il passo, finché quasi non ce la feci più a starle dietro. Nel frattempo mi ero resa conto che quella mucca non era solo una benedizione, ma anche un grande peso. Non se ne parlava più di intraprendere lunghe escursioni per esplorare il territorio. Un animale del genere vuole essere nutrito e munto e richiede un padrone sedentario. Ero proprietaria e prigioniera d'una mucca. Eppure, anche se non l'avessi affatto voluta, mi sarebbe stato impossibile abbandonarla. Ero la sua unica risorsa. Quando raggiungemmo la radura, era quasi buio. La mucca si arrestò e con un lieve muggito voltò indietro la testa, contenta. La condussi alla capanna del guardacaccia. Vi si trovavano solo due cuccette, un tavolo, una panca e un fornello in muratura. Trascinai il tavolo all'aperto. Strappai il pagliericcio da una delle cuccette e condussi la mucca nella sua nuova stalla. Per una mucca era abbastanza spaziosa. Presi un secchio di latta dal fornello, lo riempì d'acqua e lo posai dentro al fusto vuoto del letto. Non potevo fare altro per la mia mucca quella sera. L'accarezzai, spiegandole la sua nuova condizione, e poi sprangai la stalla. Ero talmente stanca che mi trascinai a fatica fino allo chalet. I piedi mi bruciavano negli scarponi pesanti e la schiena mi faceva male. Diedi da mangiare all'ince e bevvi la cioccolata nel termos, troppo esausta per mangiare i panini. Quella sera mi lavai con l'acqua fredda della fontana e andai subito a letto. Anche l'ince sembrava stanco, perché appena finito il pasto si infilò nella nicchia della stufa. La mattina dopo fu meno insopportabile della precedente, perché non avevo ancora aperto gli occhi che mi venne in mente la mucca. Fui subito sveglia come un grillo, sebbene fossi ancora tutta sconquassata dalle fatiche alle quali non ero abituata. Avevo perfino dormito un po' più a lungo e i raggi gialli del sole filtravano già dalle fessure delle imposte. Mi alzai e mi misi al lavoro. La casa era ben attrezzata. Destinai dunque un secchio alla mungitura e me lo portai alla stalla. La mucca se ne stava buona buona davanti al fusto del letto e mi salutò, leccandomi la faccia tutta festosa. La munsi, ma a causa delle mie ossa indolenzite andò peggio del giorno prima. Mungere è un lavoro particolarmente faticoso e io dovevo riprendere l'abitudine, ma sapevo come muovere correttamente le mani e questa era la cosa essenziale. Dopo averla munta, condussi la mucca sul prato vicino al bosco, visto che non avevo fieno, e la lasciai lì a pascolare. Sapevo benissimo che non si sarebbe più allontanata da me. Infine feci colazione. Latte caldo con i panini ormai rinsecchiti, avanzati dal giorno prima. Tutto quel giorno, lo ricordo con chiarezza, fu dedicato alla mucca. Le attrezzai la stalla nel miglior modo possibile. Stesi una lettiera di rami verdi in mancanza dello strame e col primo letame posi le fondamenta per una concimaia accanto alla capanna. La stalla era una costruzione solida, di tronchi robusti. Sotto al colmo del tetto si trovava un piccolo vano dove più tardi stivai lo strame. In quel periodo, tuttavia, non ce n'era ancora e fino all'autunno dovevo rimediare con dei rami freschi. I miei pensieri, ovviamente, ruotavano attorno alla mucca. Se avevo molta fortuna, aspettavo un vitello. Ma su questo non potevo fare affidamento, potevo solo sperare che desse latte più a lungo possibile. Continuavo a considerare la mia situazione come uno stato passeggero, o almeno mi sforzavo di farlo. Avevo poca esperienza nell'allevamento dei bovini. Una volta avevo assistito alla nascita di un vitello, ma non sapevo affatto quanto durasse la gravidanza di una mucca. Questo, nel frattempo, l'ho appreso da un almanacco agricolo, eppure a tutt'oggi non ne so molto di più, né saprei in quale modo potrei accrescere le mie nozioni. A un certo punto pensai di smantellare il fornello nella stalla, il quale in seguito si rivelò invece molto comodo. All'occorrenza potevo scaldare l'acqua anche nella stalla. Portai il tavolo e la poltrona nel garage, dove già si trovavano molti attrezzi. Ugo aveva sempre tenuto alla qualità degli attrezzi e il guardacaccia, un uomo onesto e ordinato, si era preoccupato di mantenerli in perfetta efficienza. Ignoro per quale motivo Ugo ci tenesse tanto agli attrezzi. Lui non li adoperava mai. Tuttavia, a ogni visita li ispezionava con grande soddisfazione. Forse si trattava di una mania. Una mania che per me si rivelò una benedizione. Se sono ancora in vita, lo devo unicamente alle piccole eccentricità di Ugo. Povero Ugo. Che Dio lo benedica. Sicuramente sta ancora seduto al tavolo dell'osteria, davanti a un bicchiere di limonata, finalmente senza paura di ammalarsi e di morire. E non esiste più nessuno che possa spingerlo da una riunione all'altra. Mentre io mi davo da fare nella stalla, la mucca se ne stava sul prato a brucare. Era un animale grazioso, dall'ossatura minuta, ben pasciuta e di colore grigio-bruno. Per qualche ragione dava l'impressione di essere giovane e allegra. Il gesto col quale girava la testa in qua e in là, strappando le foglie dai cespugli, ricordava una giovane donna civetta e graziosa che con occhi bruni e acquosi mi guardasse al di sopra delle spalle. Quella mucca si conquistò subito un posto nel mio cuore. Era una vera delizia a vedersi. Lince gironzolava nei dintorni osservandola. Poi andò a bere alla vasca della fontana e frugò un poco tra i cespugli. Era tornato il vecchio cane allegro di prima e sembrava aver dimenticato gli spaventi degli ultimi giorni. Pareva essersi abituato al fatto che almeno temporaneamente il suo padrone fossi io. A mezzogiorno cucinai una minestra di farina di piselli speziata e aprii una scatola di corned beef. Appena mangiato fui sopraffatta da una stanchezza di piombo. Ordinai a Lince di badare un po' con la mucca e con gli abiti addosso mi gettai sul letto come stordita. Dopo tutto quanto era accaduto, non avrei proprio dovuto dormire. Devo dire che durante quelle prime settimane nello chalet di caccia dormii invece benissimo, finché il mio corpo non si fu abituato ai lavori pesanti. L'insonnia prese a tormentarmi solo molto più tardi. Mi svegliai verso le 4. La mucca si era accovacciata per ruminare. Lince, accucciato sulla panca, la osservava assonnato. Lo esonerai dalla guardia e lui tornò ai suoi giri di ricognizione. A quel tempo mi allarmavo appena lo perdevo di vista. Più avanti, avendo capito di potermi fidare ciecamente di lui, quel timore scomparve del tutto. Appena presi a far freddo, misi dell'acqua a scaldare sul fornello e accesi la stufa. Avevo urgente bisogno d'un bagno. Verso sera condussi la mucca nella stalla per mungerla, sistemai un secchio d'acqua fresca nel fusto del letto, poi la lasciai sola per la notte. Dopo il bagno mi avviluppai nella vestaglia, bevvi del latte caldo e poi andai a sedere al tavolo per riflettere. Mi stupiva il fatto di non sentirmi né triste né disperata. Ero assonnata al punto di dover poggiare la testa sulle mani, se non volevo addormentarmi lì seduta. Poiché non riuscivo comunque a pensare, tentai di leggere uno dei romanzi gialli di Ugo. Non risultò la lettura adatta. Il mio interesse per la tratta delle bianche era minimo in quel momento. D'altronde, anche Ugo si era regolarmente appisolato alla terza o quarta pagina dei suoi romanzi gialli. Forse li usava come sonnifero. Nemmeno io ressi più di 10 minuti. Infine mi alzai decisa, riposi la lampada, chiusi la porta a chiave e andai a letto. La mattina dopo il tempo era freddo e sgradevole. mi resi conto di dover provvedere al fieno per la mia mucca. Ricordai di aver visto un fienile nel prato accanto al ruscello, forse conteneva ancora un po' di fieno. La macchina di Ugo era inutilizzabile, andando in paese aveva portato con sé le chiavi. Del resto, nemmeno le chiavi mi sarebbero servite a un granché. Su insistenza delle mie figlie, avevo terminato la scuola guida solo 2 settimane prima, con grandissima difficoltà, e in nessun caso mi sarei azzardata a guidare fino alla gola. Nel garage avevo trovato alcuni sacchi usati. Dopo aver rigovernato la stalla, me li caricai in spalla e partii alla ricerca del fieno. Trovai davvero ancora un po' di fieno in quel pagliaio, nel prato accanto al ruscello. Lo stipai nei sacchi e me li trascinai dietro, legandoli uno all'altro. Ma presto mi resi conto che sul pietrisco del percorso non avrebbero retto al trasporto. Ne abbandonai quindi 2 lungo il ciglio della strada, caricandomi gli altri 2 in spalla, e li portai fino allo chalet. Sbarazzai il garage di tutti gli utensili, che sistemai nella cameretta accanto alla cucina, poi andai a prendere gli altri 2 sacchi e li vuotai nel garage. Il pomeriggio trasportai altri 2 carichi di fieno e lo stesso feci il giorno seguente. Dopotutto eravamo solo ai primi di maggio e a quell'epoca in montagna può fare ancora molto freddo. Fin quando il tempo restava fresco e leggermente piovoso, potevo lasciar pascolare la mucca nel prato vicino al bosco. Sembrava molto soddisfatta della sua nuova vita e si prestava con molta pazienza alla mia maldestra mungitura. A volte girava la grossa testa, come a osservare divertita i miei sforzi, ma restava tranquilla, senza mai scalciare. Era amabile, spesso quasi un po' baldanzosa. Pensai di darle un nome e la chiamai Bella. Non c'entrava molto col contesto, comunque era breve e sonoro. La mucca capì quasi subito di chiamarsi ormai Bella. E ai miei richiami girava la testa. Mi piacerebbe sapere quale nome avesse prima. Nella, Rita o forse Bigia. In fondo non aveva alcun bisogno d'un nome. Era l'unica mucca del bosco, forse l'unica mucca in tutto il paese. D'altronde anche Lincia aveva un nome poco adatto, che la diceva lunga sull'ignoranza dei valligiani, ma nella valle tutti i cani da caccia si erano sempre chiamati Lince. Le vere linci erano ormai estinte da tanto tempo che far quei monti nessuno riusciva più a figurarsele. Forse qualche antenato del cane aveva ucciso l'ultima vera lince conservandone il nome. Quasi fosse un trofeo di vittoria. Il tempo nuvoloso si trasformò in pioggia continua. E più tardi perfino in nevischio. Bella rimase nella stalla, dove la nutrivo col fieno, e io trovai finalmente tempo e calma per riflettere. Il 10 maggio, sulla mia agenda, vale a dire su quella di Ugo, trovo un'annotazione. Inventario. Quel 10 maggio fu un vero e proprio giorno invernale. La neve, che all'inizio non aveva preso, rimase a terra mentre continuava a fioccare. Cominciò col fatto che mi svegliai sentendomi completamente abbandonata e indifesa. Il mio corpo non era più spossato. Mi trovai quindi esposta all'assalto dei pensieri. Erano trascorsi 10 giorni e nella mia situazione non era cambiato nulla. Per 10 giorni mi ero stordita di lavoro, ma la parete stava sempre lì e nessuno era venuto a prendermi. Non mi restava che affrontare finalmente la realtà. Non rinunciai subito alla speranza, allora. Perfino quando fui costretta ad ammettere di non poter più contare sui soccorsi, quella folle speranza rimase dentro di me. Una speranza contraria a ogni ragione e alla mia stessa convinzione. Già allora, il 10 maggio, mi apparve indubbio che la catastrofe avesse dimensioni gigantesche. Tutto lo confermava. L'assenza dei soccorritori, l'assenza di voci umane alla radio, e quel poco che io stessa avevo potuto vedere attraverso la parete. Anche molto più tardi, quando in me quasi ogni speranza si fu spenta, stentai sempre a credere che anche le mie figlie fossero morte in quel modo, come il vecchio alla fontana e la donna sulla panca. Oggi, se penso alle mie figlie, le vedo sempre bambine, ma all'età di 5 anni, ed è come se fossero uscite dalla mia vita già allora. A quell'età, probabilmente, tutti i bambini incominciano a uscire dalla vita dei loro genitori. Molto lentamente si trasformano in pensionanti estranei. Eppure tutto ciò avviene in modo talmente impercettibile che quasi non lo avvertiamo. In realtà ci furono alcuni momenti in cui quest'ipotesi mostruosa mi balenò per la mente, ma come tutte le madri avevo rapidamente represso quella sensazione. Dovevo pur vivere. E quale madre potrebbe vivere se prendesse coscienza di questo fenomeno? Quando mi svegliai il 10 maggio, pensai alle mie figlie come a delle ragazzine che trotterellavano attraverso il parco divertimenti, la mano nella mano. Le due adolescenti piuttosto sgradevoli, litigiose e senza cuore che avevo lasciato in città, erano diventate all'improvviso del tutto irreali. Non sono loro che ho pianto, ma unicamente le bambine di tanti anni prima. Forse sembra molto crudele, ma non saprei davvero a chi mentire ancora oggi. Posso permettermi di scrivere la verità? Tutti coloro per amor dei quali ho mentito tutta la vita sono morti. Intirizzita nel mio letto, incominciai a riflettere sul da farsi. Potevo ammazzarmi o tentare di scavare un varco nella parete. La qualcosa con ogni probabilità sarebbe stata una forma più faticosa del suicidio. E naturalmente potevo restare qui e tentare di sopravvivere. Per pensare seriamente al suicidio, non ero abbastanza giovane. Era soprattutto il pensiero di Lince e di Bella a trattenermi. E poi anche una certa curiosità. La parete era un enigma e non avrei mai trovato il coraggio di svignarmela di fronte a un enigma non risolto. Grazie alla previdenza di Ugo, possedevo alcune provviste, forse sufficienti per l'estate. Una casa, legna per tutta una vita e una mucca, altro enigma non risolto, la quale forse aspettava un vitello. Volevo almeno attendere la comparsa o la non comparsa di questo vitello prima di prendere ulteriori decisioni. Sulla parete non mi ruppi troppo la testa. Supponevo si trattasse di una nuova arma che una delle superpotenze era riuscita a tenere segreta fino a quel punto. Un'arma ideale che lasciava intatto il suolo uccidendo solo gli uomini e gli animali. Certo, sarebbe stato meglio se avesse risparmiato gli animali, ma questo evidentemente non era stato possibile. Da quando esistono, gli uomini, nelle loro vicendevoli carneficine, non hanno mai preso in considerazione gli animali. Una volta esaurito l'effetto del veleno, almeno immaginavo si trattasse del veleno, avrebbero potuto impossessarsi del territorio. Le vittime, a giudicare dal loro aspetto pacifico, non avevano sofferto. Tutto questo mi sembrò la diavoleria più clemente che mente umana avesse mai escogitato. Mi era impossibile prevedere per quanto tempo la terra sarebbe rimasta sterile. Supponevo che la parete sarebbe scomparsa non appena fosse stato possibile rimettervi piede per lasciare via libera ai vincitori. Oggi talvolta mi chiedo se l'esperimento, ammettendo che si trattasse di qualcosa del genere, non sia riuscito fin troppo bene. I vincitori si fanno attendere troppo a lungo. Forse non esistono vincitori. Non ha senso rompersi la testa a tale proposito. Uno scienziato, uno specialista di ordigni distruttivi, avrebbe scoperto più di quanto abbia fatto io, ma non gli sarebbe servito a molto. Con tutta la sua scienza, non avrebbe potuto agire diversamente da me, aspettando e tentando di sopravvivere. Avendo completato il quadro della situazione come meglio poteva fare una persona della mia esperienza e intelligenza, gettai da parte la coperta e mi accinsi ad accendere il fuoco, perché quella mattina faceva molto freddo. Lince sgusciò fuori dalla nicchia della stufa, esprimendomi la sua consolante simpatia. Poi fu ora di andare alla stalla ad accudire Bella. Finita la colazione, cominciai a stivare tutte le provviste che possedevo nella camera da letto e compilai un inventario. La lista si trova qui davanti a me e non ho voglia di ricopiarla. Del resto, nel corso di questa cronaca verrà menzionato quasi ogni oggetto che possedevo. Trasferii i viveri dalla cameretta nella stanza da letto perché lì fa fresco anche d'estate. Lo chalet è addossato alla montagna e il lato posteriore si trova sempre all'ombra. Vestiti ne avevo a sufficienza, anche petrolio per la lampada e spirito per il piccolo fornello. C'erano anche due pile con le batterie di scorta e un pacco di candele. La farmacia di casa era ben fornita, a parte le bende per le fasciature e gli analgesici, è ancora completa. In quella farmacia Ugo aveva messo tutto il suo amore. Credo che la maggior parte dei medicinali sia ormai da tempo inutilizzabile. Un grosso sacco di patate e una quantità di fiammiferi e di munizioni si rivelarono di importanza vitale. E naturalmente i vari attrezzi, una doppietta e una carabina, il cannocchiale, la falce, il rastrello e un forcone da fieno usati per tagliare l'erba nel prato vicino al bosco che serviva a foraggiare la selvaggina e un piccolo sacco di fagioli. Senza questi oggetti, che devo alle paure di Ugo e al caso, non sarei più in vita. Constatai di aver consumato già troppi viveri. Era soprattutto uno spreco usarli per nutrire anche Lince. Inoltre non gli faceva bene, aveva urgente bisogno di carne fresca. La farina, economizzandola al massimo, poteva durare ancora 3 mesi. Né potevo contare sul fatto che mi ritrovassero prima di allora. Dovevo smettere una volta per tutte di contare sul mio ritrovamento. Il tesoro più prezioso per il mio futuro erano le patate e i fagioli. Dovevo assolutamente scovare un posto adatto a coltivarvi un piccolo campo e soprattutto dovevo decidermi a procurarmi della carne fresca. Sapevo maneggiare i fucili, avevo spesso partecipato con successo al tiro a segno, ma mai prima da allora avevo sparato a della selvaggina viva. Più tardi, nel posto riservato al foraggio della selvaggina, trovai 6 mattonelle rosse di sale pastorizio e le riposi in cucina all'asciutto. Da tempo mi è rimasto solo questo sale grezzo. D'estate, con le lenze di Luise, potevo pescare delle trote. Non l'avevo mai fatto prima d'allora, non doveva essere poi tanto difficile. La prospettiva di una simile attività assassina non mi piaceva affatto. Ma se volevo restare in vita insieme a Lince, non avevo altra scelta. A mezzogiorno cucinai del riso al latte, rinunciando allo zucchero. Eppure, malgrado la mia parsimonia, dopo solo 8 settimane, già non avevo più una zolletta di zucchero. E di lì in avanti fui costretta a privarmi di qualsiasi cibo dolce. Mi proposi con ostinazione di caricare quotidianamente gli orologi e di stralciare ogni giorno dal calendario. A quel tempo ciò mi sembrò molto importante. Mi aggrappavo proprio a quei miseri resti dell'ordine umano. Certe abitudini comunque non le ho mai abbandonate. Mi lavo tutti i giorni, mi pulisco i denti, lavo la biancheria e tengo pulita la casa. Ignoro perché lo faccio. È quasi una costrizione interiore che mi spinge. Forse temo che se potessi fare diversamente, cesserei lentamente di vivere come un essere umano per incominciare ben presto a strisciare carponi, sporca e maleodorante, emettendo suoni incomprensibili. Non che tema di trasformarmi in un animale, non sarebbe poi tanto grave. Un uomo non può mai diventare un animale. Sfiora l'animalità per precipitare in un abisso. Non voglio che questo mi succeda. Negli ultimi tempi è soprattutto questo pensiero a spaventarmi. E questa paura mi spinge a scrivere la mia cronaca. Una volta arrivata in fondo, la nasconderò accuratamente per dimenticarla. Non voglio che quella cosa estranea in cui potrei trasformarmi possa un giorno trovarla. Farò di tutto per sfuggire a questa trasformazione, ma non sono così presuntuosa da credere fermamente che a me non possa accadere quanto è capitato a tanti altri. Già oggi non sono più la persona che ero una volta. Come potrei sapere in quale direzione sto andando? Forse mi sono già allontanata da me stessa al punto di non accorgermene più. Se ora penso alla donna che ero prima che la parete si affacciasse nella mia vita, non mi riconosco più in lei. Ma anche la donna che il 10 maggio annotò sul calendario inventario mi è diventata estranea. Fu molto sensato da parte sua lasciare delle annotazioni, così ora, nel ricordarla, posso risvegliare la nuova vita. Mi accorgo di non aver scritto il mio nome. L'avevo quasi dimenticato. Ed è bene così. Nessuno mi chiama con questo nome. Dunque, non esiste più. e neppure voglio che un giorno compaia nei settimanali illustrati dei vincitori. Sembra assurdo che da qualche parte al mondo esistano ancora dei settimanali illustrati. Ma perché no, poi? Se la catastrofe si fosse verificata nel Belucistan, ce ne staremmo seduti indifferenti al caffè a leggere la notizia sul giornale. Oggi il Belucistan siamo noi, una terra esotica, remota, di cui si sa a malapena dove si trovi, una terra in cui abitano uomini che presumibilmente non sono nemmeno veri e propri esseri umani, sottosviluppati e insensibili al dolore, cifre e numeri sui giornali stranieri. Non c'è motivo di agitarsi. Ricordo bene quanta poca fantasia avesse la maggior parte delle persone. Forse per loro era una fortuna. L'immaginazione rende l'uomo ipersensibile, vulnerabile e indifeso. Probabilmente è solo un fenomeno degenerativo. A coloro che mancavano di fantasia, non ho mai rinfacciato tale carenza. Talvolta li ho perfino invidiati. Per loro la vita era più facile e più piacevole di quanto non fosse per gli altri. Questo veramente non c'entra con la mia cronaca. Ma è inevitabile che talvolta io rifletta su cose per me del tutto irrilevanti. Sono talmente sola che non sempre riesco a sfuggire ai pensieri sterili. Da quando Lynch è morto, questa tendenza è molto peggiorata. Tenterò di non divagare troppo dalle annotazioni sul calendario. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.